Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Non è facile approcciarsi alla storia, soprattutto quando bisogna andare indietro di anni, di decenni o come in questo caso di secoli, perché bisogna attenersi a quello che viene raccontato, che è stato tramandato dagli storici. È difficile trovare documenti attendibili. Oggi ci sono gli audio, i video, quindi in qualche modo la verità è meno manipolabile, e noi ci addentriamo in questo caso nei grandi limiti lasciati dagli interrogativi risolti, cercando di togliere la polvere dal tempo per raccontarvi una storia emblematica. Oggi parliamo di una donna straordinaria, una delle donne più famose e conosciute di tutti i tempi, ma anche una delle figure più controverse che siano mai esistite, cioè Lucrezia Borgia. Di lei è stato detto tutto il peggio, la storia l'ha ricoperta anche di luoghi comuni, per cui per i più sprovveduti Lucrezia Borgia è solo la libertina che avvelenava la gente. Ovviamente la realtà è molto più complicata. Si è detto di lei che era intrigante, sanguinaria, corrotta, che usava il sesso per le sue mire di potere, che si è resa complice di azioni efferate e poi appunto l'avvelenatrice. Ma la sua vicenda ha varie chiavi di lettura, perché potremmo anche vederla come una vittima sacrificale per le mire politiche della sua terribile famiglia, che l'ha usata per i suoi scopi. Adesso ci sono anche delle fiction che narrano dei Borgia, magari in maniera un po' romanzata, ma che comunque sono sempre meglio che niente se ci approcciamo al passato. Chi è stata Lucrezia Borgia? Oggi cercheremo di chiarirci meglio le idee, anche per gettare un velo di dubbio su quelle certezze che hanno accompagnato la condanna che la storia le ha dato per tutti questi secoli, una condanna senza appello. La figlia era degna compagna del padre, la sorella era degna compagna del fratello. Libertina per fantasia, empia per temperamento, ambiziosa per calcolo, Lucrezia bramava piaceri, adulazioni, onori, gemme, oro, stoffe fruscianti e palazzi sontuosi. Spagnola sotto i suoi capelli biondi, cortigiana sotto la sua aria candida, aveva il viso di una Madonna di Raffaello e il cuore di una messalina. E questo era Alexandre Dumas, padre, che nella sua opera Delitti celebri dedica un racconto ai Borgia e parla in termini ovviamente poco lusinghieri di Lucrezia. Non è il solo. Victor Hugo nella sua celebre tragedia la dipinge come l'archetipo della malvagità femminile, e lo stesso farà Donizetti con la sua opera. I biografi hanno tramandato le sue gesta terrificanti, gli aspetti più truculenti della sua vita, le sue relazioni anche in incestuose, e il cinema e la TV si sono accodati a questa corrente di pensiero, l'hanno dipinta nello stesso modo. Ci sono anche dei fumetti erotici, uno di Milo Manara, di Jodorowsky, i gruppi musicali di heavy metal e di rock gotico le hanno dedicato delle canzoni. Insomma, lei è stata una dark lady, ma una dark lady con molte sfumature che io vorrei considerare. Lucrezia Borgia nasce a Subiaco, in provincia di Roma, il 18 aprile 1480. È la figlia di Rodrigo Borgia, arcivescovo di Valencia, il potentissimo cardinale spagnolo che nel 1492 diventerà papa con il nome di Alessandro VI. E già c'è il primo momento di stupore. E non c'è una morale come quella di oggi, perché l'Italia intanto pullula di figli illegittimi, e molti di questi sono figli di preti, di alti prelati. Quindi insomma, diventare la figlia di un papa non è un disonore ma un grande vantaggio, e il popolino nulla sa e comunque non è autorizzato, come dire, a scandalizzarsi e a reagire. E quindi lei è figlia di un prelato che diventa Papa e ha, come dire, pari requisiti di quelli nati con nobili natali, anzi forse ancora meglio. Insomma, lei è figlia di Rodrigo Borgia e di Vannozza de Cattane, la sua concubina ufficiale, una donna mantovana di grande bellezza che gli dà 4 figli, Cesare, Giovanni, Lucrezia e Goffredo. E Rodrigo Borgia ha anche altri 3 figli precedenti con altre donne e li riconosce tutti tranquillamente. È l'unica donna tra 4 fratelli e lei è la preferita del padre. I biografi ricordano che le voleva bene in superlativo grado e poi vedremo cosa significhi questo superlativo grado. Comunque per Rodrigo Borgia i figli rappresentano una grande forza, uno strumento per affermare la sua potenza e i maschi saranno tutti dei condottieri a difesa del papato e Lucrezia attraverso i suoi matrimoni sarà lo strumento ideale per stringere alleanze proficue. Il falco e il gabbiano. Lucrezia è molto piccola quando viene tolta alla madre perché il padre preferisce che a educarla sia una sua cugina Adriana Mila, che esegue in tutto e per tutto i voleri di Papa Borgia. È la donna e vedova del nobile Ludovico Orsini e la sua nuora Giulia Orsini a 14 anni è già l'amante del Papa. Vedete, insomma, si delinea la figura di quest'uomo che non ha veramente nulla di religioso. Qualcuno disse che se il cristianesimo è riuscito a durare 2000 anni malgrado la Chiesa, vuol dire che si tratta di un'idea molto forte e io la penso così. E lei ama il padre, è completamente sottomessa, ha ereditato molte caratteristiche, è sensuale, magnetica e secondo molti ugualmente immorale come il nostro Rodrigo Borgia. Lei, tra l'altro, oltre ad avere questo rapporto strettissimo col padre, è molto legata al fratello maggiore Cesare Borgia, quello che ispirerà Machiavelli nel suo celeberrimo trattato Il Principe. Non sappiamo quanto fosse bella Lucrezia Borgia, qualcuno dice che era bellissima, qualcuno che era abbastanza bella, di certo ha 2 caratteristiche che sono molto apprezzate, occhi azzurri e capelli biondi lunghissimi. Una sua ciocca di capelli è conservata nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano, trovata tra le carte di Pietro Bembo, grande letterato poeta dell'epoca, follemente innamorato di lei, con la quale ha una lunga relazione, forse platonica, forse no. Voi avete mai desiderato di eccellere in qualcosa? Salvo poi accorgervi di peggiorare ogni tentativo. Pietro Bembo, servo vostro. Andatevene. Pietro Bembo, disobbediente servo vostro. È mia madre che vi manda. Vi risponderò se prima mi darete un giudizio sulla mia canzone. Sulle parole, perché la musica deve essere un po' ritoccata. Incantevole. Quanto lo siete voi. Ho capito, avete voglia di sollazzarvi. Oh no, no no no no no. L'amore fisico deve essere comprato e pagato. Di conseguenza non ci si aspetta alcun impegno da entrambe le parti. Mentre l'amore platonico dura in eterno, ti avvince e ti rende felice. Al di là di alcune perplessità, diciamo, sul doppiaggio. Ma comunque questa era una scena tratta dalla bellissima serie TV I Borgia. E torniamo a Lucrezia. Viene educata come deve essere educata una ragazza del suo alto lignaggio. Intanto conosce molte lingue, italiano ma anche spagnolo, perché il padre è spagnolo. Poi studia il francese, ovviamente il latino. Viene educata alle arti, alla poesia, alla musica, alla danza, al disegno. È brava nel ricamo, ma la sua dote più incredibile, soprattutto se pensiamo a una ragazza di quei tempi, è l'eloquenza. Lei parla benissimo, incanta chi l'ascolta con una voce angelica, suadente, con una dotta scelta di termini, e insomma chi la conosce dicono ne rimanesse letteralmente stregato. Il padre la sta preparando bene, sta pensando di sposarla a qualche nobile, ricco, influente, possibilmente spagnolo. Poi invece accade qualcosa che modifica totalmente le vite di tutti e lei diventa per il padre una vera e propria merce di scambio, un tesoro. Il fatto che accade è che nel 1492 Rodrigo Borgia viene eletto pontefice con il nome di Alessandro VI e qui cambia tutto, perché lui diventa capo di uno stato stato potentissimo, con mire espansionistiche esattamente come tutti gli altri stati. Insomma, modifica l'idea che ha del matrimonio della figlia, perché altro che un nobile spagnolo, ci vogliono alleanze strategiche molto vantaggiose, si punta molto più in alto. Bisogna tener conto di un fatto importante: l'Italia del XV secolo è un luogo strategico, in realtà lo è sempre stata, se la contendono Francia-Spagna. Gli spagnoli sono a Napoli, i francesi mirano al Ducato di Milano, il duca Gian Galeazzo Sforza è cugino del re di Francia, Carlo VIII, e insomma le strategie politiche sono all'ordine del giorno. Per esempio Ludovico Sforza, lo zio di Galeazzo, dà l'appoggio al re di Francia che vuole invadere il regno di Napoli in cambio del Ducato di Milano. Il Papa si trova in mezzo, non solo geograficamente parlando, ma proprio nel centro di questa contesa dalla quale lui vuole trarne i vantaggi maggiori. In teoria lui dovrebbe appoggiare gli spagnoli, visto che è di origine spagnola, ma invece cosa fa? Si accorda con il cardinale Ascanio Sforza, che gli propone di far sposare Lucrezia a sua nipote Giovanni Sforza, il duca di Pesaro, feudo papale, il regno della Chiesa. Con queste nozze i Borgia si imparenterebbero con la famiglia degli Sforza, una bella alleanza in previsione dell'imminente arrivo dei francesi che vogliono il regno di Napoli. Insomma, è uno scenario intricato. Quello che è chiaro è che in tutto questo la volontà di Lucrezia conta niente, conta meno che zero. Lei ha 12 anni quando il padre, il Papa, la usa come si farebbe con una pedina di scacchi, la sposta da un possibile alleato all'altro a seconda della sua convenienza. Così il 12 giugno del 1493 la piccola e biondissima Lucrezia Borgia va in sposa a Giovanni Sforza, nipote di Ludovico il Moro, che lei non conosce, che ha più del doppio dei suoi anni. Il matrimonio viene celebrato nello sfarzo più incredibile. Immaginate la figlia del Papa che sposa uno Sforza nel monumentale palazzo apostolico della Città del Vaticano. Si narra che si occupino di lei 500 persone. Insomma, è totalmente al centro dell'attenzione. Madonna Lucrezia emana eleganza e modestia. La sua bellezza angelica non ha eguali e non si è mai vista in Roma una sposa più meravigliosa. Porta la sua persona così soavemente che par non si muova. Questo matrimonio è fin da subito evidentemente una manovra del pontefice. Tra l'altro, in quel periodo c'era una consuetudine veramente raccapricciante, cioè il padre presenziava la prima notte di nozze della figlia. Cioè, pensate, anche il marito che deve andare con una sotto gli occhi del padre. Beh, pensate, il padre che vede la figlia, mamma mia, non ci voglio pensare. Beh, comunque, questo aveva un significato molto chiaro, doveva sancire l'avvenuta consumazione del matrimonio, che siccome era un contratto comunque richiedeva delle prove. Beh, Papa Alessandro Borgia non esige questa prova, riporta però Lucrezia a casa sua, quindi non è che non faccia questa prova per gentilezza, non la fa per motivi che tra poco capiremo. Insomma, lui impedisce che il matrimonio venga consumato perché dice che la figlia è troppo giovane. In realtà ha in mente tutt'altro, perché sa che potrebbe cambiare la sua alleanza politica, potrebbe cambiare rotta, e quindi in qualche modo questo matrimonio potrebbe un domani rivelarsi scomodo. Insomma, il Papa si prepara già la strategia d'uscita. Comunque, intanto, Lucrezia è contessa di Pesaro, è una donna sposata, ha una importanza maggiore nella società. È chiaro che passa le giornate tra i vari svaghi, però comincia a ricevere visite, suppliche di intercezioni presso il Papa o il marito, e dimostra una maturità rara. E il Papa però modifica le sue strategie, abbandona l'alleanza con gli Sforza perché capisce che può trarre più vantaggi sostenendo gli Aragona. stiamo parlando del Papa, vicario successore di Cristo in terra, allora i papi erano fatti così. Insomma, tiene il piede in due scarpe, non trae alcun danno dall'invasione dei francesi, però i francesi vengono sconfitti. A questo punto, insomma, il matrimonio di Lucrezia con uno Sforza non serve più, e così l'abilissimo Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, sferra la sua mossa segreta, dichiara nullo il matrimonio tra Lucrezia e Giovanni Sforza, nullo perché, come dice il diritto canonico, è un matrimonio rato e non consumato. Il falco e il gabbiano. Stiamo cercando di addentrarci nella storia e forse anche nell'anima di una donna così particolare, Lucrezia Borgia. Da un lato considerata una sanguinaria, una corrotta, complice dei crimini più efferati del padre, però forse anche strumento docile, senza volontà, merce di scambio per le mire ambiziose della famiglia, una donna decantata dai versi di Pietro Bembo, il poeta innamorato perdutamente di lei, da alcuni considerata sovrana amorevole, amata dal popolo, da altri feroce assassina che eliminava i suoi nemici con la cantarella, che era il terribile arsenico che si dice che lei tenesse sempre a portata di mano in un anello diventato il suo simbolo. Insomma, è difficile dire oggi chi sia stata una delle donne più controverse della storia dell'umanità. Probabilmente è stata tutto, diavolo e acqua santa. Sicuramente è una donna che ha vissuto in un'epoca difficile, che si è dovuta barcamenare in un mondo di uomini violenti senza morale. È comunque una donna con una fortissima personalità, perché è difficile attraversare i secoli senza cadere nell'oblio se non hai una forte personalità. Insomma, siamo arrivati al momento in cui l'alleanza con gli Sforza non è più gradita al terribile Papa Alessandro VI, padre di Lucrezia. Lui decide semplicemente che il matrimonio è nullo. D'altra parte, lui è il Papa e fa quello che gli pare, denuncia il genero e lo accusa di essere impotente, di non avere consumato il matrimonio. Giovanni Sforza si ribella, lui non è affatto impotente, ha una moglie morta di parto. Il Papa insiste e allora Giovanni contrattacca, e contrattacca pesantemente. Scrive a suo zio Ludovico il Moro: avendomi sua sublimità ricercato se lo è vero riguardo l'impotenza, gli ho risposto che no, non è vero. Anzi, avela conosciuta infinite volte, ma il Papa me l'ha tolta, peraltro si non usare con lei. Eh sì, me l'ha tolta per altro sì non usare con lei. Insomma, accusa apertamente il Papa di incesto e sostiene che anche il fratello Cesare avesse un rapporto con la sorella. Insomma, un quadro familiare orribile, terrificante. C'era una canzone volgarissima che non vi dico, sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, eccetera eccetera. Ludovico il Moro, che è un abile politico, capisce che il nipote si sta addentrando in un terreno minato, mette a tacere questa infamia, propone al giovane una prova, qualcosa di molto in voga a quei tempi, cioè che Giovanni desse evidenza della sua virilità con una dimostrazione pubblica davanti a testimoni scelti da ambedue le parti. Deve dimostrare di essere capace di consumare un atto sessuale con sua moglie e anche con altre donne. Sembra l'inizio di una barzelletta. Giovanni Sforza si oppone, non solo è una prova assurda, ma teme anche per la propria vita, ha paura che i Borgia lo facciano uccidere, non ha alternative. Insomma, capitola, è costretto a firmare una confessione di impotenza che sottoscrive di fatto l'annullamento del matrimonio. In tutto questo Lucrezia si è rifugiata nel convento di San Sisto per sfuggire a questo clamore, oggi si direbbe al clamore mediatico. Nel 1497 intanto la raggiunge la notizia che il fratello Giovanni, il capitano delle truppe pontificie, è stato ripescato cadavere nelle acque del Tevere. Il mandante non verrà mai scoperto, ma è probabile che sia stato Cesare Borgia, geloso del fratello, che l'abbia fatto uccidere. Insomma, una famiglia abbastanza particolare. Lei si assoggetta al volere del padre, conferma la non consumazione delle nozze, viene dichiarata virgo intacta, senza però dover sottostare alla visita delle matrone e delle levatrici come avrebbe voluto la legge, ma la legge la fa il Papa e lei è la figlia del Papa. La vicenda dell'annullamento del matrimonio comporta un prezzo molto alto per la reputazione di Lucrezia. Ovviamente nessuno crede all'impotenza del conte e nessuno crede che lei sia vergine. Si fa strada l'accusa di incesto. Insomma, l'opinione pubblica dà sempre più peso alle voci di dissolutezza sessuale e anche di mancanza totale di morale in tutta la famiglia Borgia. Anche perché i letterati dell'epoca sono un po' i giornalisti di gossip di oggi, insistono molto su questi aspetti della vita del Papa e dei suoi figli. Il poeta e umanista Jacopo Sannazzaro definisce Lucrezia figlia, moglie e nuora del pontefice, alludendo al fatto che lei abbia rapporti sia col padre che col fratello Cesare. Il cronista veneziano Giuliano Priuli la definisce la più gran puttana che vi fosse in Roma. Il cronista umbro Matarazzo la descrive come colei che portava il gonfalone delle puttane. Quello che ha trasmesso notizie ancora più dettagliate sulla vita privata di Lucrezia a Roma è Johannes Burckhardt di Strasburgo, italianizzato in Burcardo, maestro di cerimonie durante il pontificato di Papa Borgia. Nel suo diario, il Liber Notarum, descrive con ricchezza di particolari i cerimoniali e le etichette di corte, annota alcune scene scabrose, come ad esempio la cena delle cortigiane, un'orgia ideata da Cesare Borgia la sera del 31 ottobre 1501. Il duca Valentino aveva fatto venire in palazzo 50 cortigiane e tutta la notte stettero in voglia di balli e riso. Le ragazze ballarono primo in vestibus suis, poi nude. Cesare fece mettere in terra i candelabri accesi e le donne, nude, carponi, dovevano raccogliere le castagne lanciate loro, incitate dal Papa, da Cesare e da Domina Lucrezia. Insomma, un bunga bunga del Cinquecento, tutto questo senza neanche fargli fare le vallette a queste ragazze. Proprio una di queste situazioni così, insomma, emblematiche dei tempi. E poi c'è questa tesi dell'incesto che pesa su Lucrezia. Nasce un bambino, l'infante Romano, nato durante un soggiorno di Lucrezia in un convento. Lei lo accudirà con amore, alcuni dicono che fosse figlio del Papa e altri figlio di Cesare, oppure figlio di un'altra madre, quella Giulia Orsini, amante del Papa. Insomma, è un figlio della colpa che viene un po' palleggiato. Lei comunque continua a essere merce di scambio del pontefice. Rodrigo Borgia vuole cementare la sua alleanza con gli aragonesi, organizza il secondo matrimonio di Lucrezia con Alfonso d'Aragona, figlio illegittimo di Alfonso il re di Napoli. Matrimonio 21 luglio del 1498, matrimonio ovviamente combinato, però Lucrezia appena vede Alfonso, duca di Bisceglie, se ne innamora all'istante. Lui è addirittura più giovane di lei, ha 17 anni, e i cronisti lo definiscono l'adolescente più bello che si è mai visto in Roma. E da questo matrimonio, il 31 ottobre del 1499, nasce un bambino che viene chiamato come il nonno, Rodrigo d'Aragona. E nel frattempo però le alleanze cambiano e allora Cesare Borgia, che si è alleato con il nuovo re di Francia Luigi XII, vuole conquistare il regno di Napoli e di conseguenza anche questo matrimonio non va più bene. Il 15 luglio del 1500 Alfonso viene aggredito da un gruppo di uomini armati, ferito gravemente, e lei è convinta, Lucrezia, che il mandante dell'aggressione sia il fratello Cesare, chiede protezione al padre, pensate, l'errore. Intanto cura con amore il suo sposo che si riprende, però Cesare Borgia pronuncia la famosa frase: ciò che non è stato compiuto a pranzo può essere benissimo fatto a cena. Così il 18 agosto, al secondo tentativo, Alfonso viene strangolato da un certo Michelotto da Corella, detto il boia del Valentino, un sicario personale di Cesare Borgia. Lucrezia è disperata, piange tutte le sue lacrime, chiede al padre di concedere il conforto del convento, vuole farsi monaca, però non prende in odio suo fratello Cesare. Lo scrive anche Maria Bellonci, forse la più grande biografa di Lucrezia Borgia, perché per quanto sia avvenuto un fatto terribile tra i due, l'amore che unisce Lucrezia a Cesare rimane immutato. Non le viene concesso il convento, ovviamente, perché il padre ha già in mente il prossimo marito. marito, l'alleanza delle alleanze, quella con la famiglia più potente che esista, gli estensi duchi di Ferrara, le trattative per il matrimonio tra Lucrezia e Alfonso d'Este, figlio erede del duca Ercole, sono avviate. Gli estensi inizialmente non vogliono Lucrezia perché ha una brutta fama, mandano degli emissari in incognito a Roma per verificare che donna sia. Loro la descrivono come una fanciulla bionda, delicata, eterea, dolcissima, soave, insomma il matrimonio alla fine viene combinato e Lucrezia lascia per sempre Roma e suo padre. Vi prego, non ditemi che siete triste. I nostri occhi non sono bagnati di lacrime, è solo un'infreddatura che non vuole andarsene. Non stiamo piangendo, non è la giornata per farlo. Festeggiamo, fanciulla adorata. Questa è la tua occasione per avere amore, felicità e pace. Perché non ho questa sensazione? Perché non sei avvezza alla felicità, all'amore e alla pace. Le gioie non sono concesse, bisogna lottare per averle. Devi andare, c'è una carrozza che ti sta aspettando. Bah, e non guardare indietro. Non guardare indietro, perché sappi che qualunque cosa ti occorra, in qualsiasi istante, che io sia vivo o morto, ci sarò sempre. Ora va, e quando pronuncerò il tuo nome, non voltarti, ti prego, non farlo. Lucrezia. Lucrezia. Lucrezia. Io guarderò sempre indietro. Questo è un doppiatore, ma andiamo avanti. Il 2 febbraio 1502 Lucrezia Borgia fa il suo ingresso trionfale a Ferrara, un convoglio enorme, la scorta, però dietro a questo fasto c'è un rovescio della medaglia terribile, perché per rispettare le convenienze gli estensi hanno fatto una richiesta: lei deve arrivare a Ferrara come sposa vergine, quindi deve abbandonare per sempre il figlio Rodrigo, che viene affidato a una zia che morirà di malattia a soli 13 anni. È una delle silenziose vittime della storia delle quali spesso abbiamo raccontato. Ma comunque lei si avvia a un periodo bello, il più sereno che lei abbia avuto, anche se nel 1503 muore il padre, il Papa, e nel 1507 muore l'amato fratello Cesare. Lei comunque a Ferrara sta bene e si riscatta da quella che è stata la sua vita precedente, si fa amare dai sudditi, dalla famiglia del marito, da lui che all'inizio non era molto felice del matrimonio, vive un grande fervore religioso, insomma si rivela una duchessa abile e amorevole, donna colta, una mecenate che contribuisce alla fama di personaggi come l'Ariosto, come il solito poeta Bembo, come Ercole Strozzi. Siccome però il lupo perde il pelo ma non il vizio, ha in effetti una relazione extraconiugale col cognato Francesco Gonzaga, marito di Isabella d'Este, la sorella di suo marito. Però insomma nessuno è perfetto. I due hanno 7 figli in 17 anni di matrimonio. L'ultimo parto è quello che le sarà fatale. Il 14 giugno del 1519 dà alla luce una bambina, Isabella Maria, ma lei è debilitata, si ammala gravemente di setticemia, e allora di setticemia si moriva, e infatti muore pochi giorni dopo, il 24 giugno del 1519, a 39 anni. La sua morte getta nel lutto l'intera corte degli estensi, che l'hanno amata, che hanno imparato a apprezzare la loro duchessa, passando sopra tutto quello che c'era di vero o di falso, insomma tutto quello che si era detto su di lei. E adesso tocca a noi farci la nostra personale opinione su questa donna, la cui fama ha comunque attraversato i secoli e ancora oggi è una fama che affascina, che rende increduli, soprattutto per la sua straordinaria forza d'animo. Ci sono storie, magari sconosciute, di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala verso l'alto, oppure di persone delle quali crediamo di conoscere qualcosa che è stato distorto dalle lenti rifrangenti del tempo che passa. Persone che hanno tentato, che hanno avuto cadute e risalite, come la nostra meravigliosa e terribile Lucrezia Borgia. Se volete mandare dei commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a cercarmi sui miei, sui nostri social, insomma se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.